La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, qui in diretta di Studio Milano, Oscar Giannino vi saluta e come sempre vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e invita in particolare gli ascoltatori romani oggi, anche tutti gli altri come ovvio, ma in particolare romani perché parliamo di una vicenda che impatta molto pesantemente, rischia di impattare molto pesantemente sul futuro dei cittadini romani che, ricordiamolo, loro malgrado sono già al massimo delle sovraliquote possibili per le tasse che pagano, lo 0,9% solo di sovraliquota IRPEF, tra i grandi comuni italiani sono praticamente soli in questo, perché ce l'hanno perché dal 2008 tutti i contribuenti italiani sono stati chiamati a sobbarcarsi con una maxi rata annuale per i debiti di Roma. È stato il primo grande salvataggio, poi ci sono stati altri due decreti salva Roma nel frattempo, però lo ricordo, Roma può godere in quanto capitale del fatto che nel 2008, di fronte all'enorme mole, all'epoca si trattava di oltre 22 miliardi di euro del debito accumulato dalle giunte preesistenti, il governo all'epoca di centrodestra, appena entrato in carica il sindaco Alemanno, operò un salva Roma per il quale questi 22 miliardi venivano tirati fuori dalla gestione ordinaria del bilancio del Campidoglio e affidati a una gestione commissariale. Se lo sognano gli altri comuni di avere cose di questo genere, come ovvio, però è la capitale, eccetera, eccetera, eccetera. Da allora le giunte di destra e di sinistra succedutesi, sia pure con restrizioni di bilancio, ci mancherebbe, però sono andate avanti coprendosi di questo scudo. Ripeto, i contribuenti danno una rata di 500 milioni l'anno per l'abbassamento del debito, la gestione commissariale poi si è, con le diverse figure che sono succedute alla guida della gestione commissariale, incaricata di vedere quali crediti erano davvero esigibili, quali no, eccetera eccetera, cioè di gestire al meglio questo debito. Allora, che cosa succede adesso? Che il Messaggero in questi due giorni, quotidiano della capitale, ha tirato fuori uno scoop. Lo scoop è relativo al fatto che l'ex assessore della giunta Marino al bilancio, poi sostituito perché non d'accordo, perché lei proponeva dei tagli che il resto della giunta e il sindaco non condividevano, Silvia Scozzese, tecnico del ministero, nominato poi dopo la sua uscita da assessore al bilancio, nuovo gestore commissariale del fondo debito separato dal bilancio ordinario del Campidoglio, consegna una sua relazione aggiornata dello stato del passivo. Siamo a 13,6 miliardi, quindi una cifra sempre imponente. E la notizia che lancia il Messaggero è una notizia potenzialmente devastante, perché parrebbe che il governo sia intenzionato a retrocedere questi 13,6 miliardi nella gestione ordinaria del bilancio del Campidoglio. Naturalmente, questa è la mia opinione, il sospetto che viene immediato è che dopo aver consentito con la gestione commissariale alla destra e alla sinistra di andare avanti ordinariamente, adesso, poiché sembra profilarsi un sindaco a Roma che non è espressione della destra o della sinistra, questo sembrano dire le cronache e i sondaggi, restituendogli 13,6 miliardi sul groppone, è come dire: caro nuovo sindaco entrante, sia tu 5 Stelle, sia tu Marchini, insomma sei morto, perché con 14 miliardi improvvisamente di gestione passiva nel bilancio aggiuntivi rispetto a quelli di cui hanno goduto le giunte Marino, la giunta Alemanno e così via, capite bene che chiunque sia il sindaco di Roma gli esplode un Vietnam sotto il sedere. Questa è la prima notizia. Naturalmente sono io che penso male. Io ho molto criticato negli anni la gestione commissariale, ma non mi sfugge che se adesso il governo decidesse improvvisamente, guarda il caso, poiché i candidati del centrodestra e del centrosinistra ancora non si capisce quali siano, ma insomma i sondaggi sono molto messi male per la destra e la sinistra che hanno governato Roma negli anni alle nostre spalle, guarda caso adesso il debito non è più in gestione commissariale ma ritorna nel bilancio ordinario, beh, la lettura politica è ovvia, significa che Palazzo Chigi preventivamente fa nascere il nuovo sindaco sotto una spada di Damocle che gli taglia la testa e la terra sotto i piedi. E io vi chiedo, cari romani, cosa ne pensate di questa prima cosa? Ma c'è una seconda notizia a cui collegare questa. Ma è pensabile che in questi chiari di luna, ve lo chiedo fuori dai denti e sapendo che mi presto l'accusa di essere indicato come antipatriota, anti-italiano, eccetera, eccetera, nel frattempo parte anche la candidatura per fare le Olimpiadi a Roma, con tutto questo debito accumulato, che non si sa più se resta in gestione separata e se resta invece e torna invece nel bilancio del Campidoglio. Facciamo le Olimpiadi, c'è stata 3 giorni fa la presentazione della candidatura ufficiale, un meraviglioso spettacolo fatto alla Fiera di Roma, con grandissima professionalità. Io l'ho già detto, mi ha molto colpito Diana Bianchetti che insieme a Giovanni Malagò, ma Diana Bianchetti la nostra fiorettista schermitrice che ha condotto impeccabilmente, come veramente sembrava una consumata comunicatrice pubblica. Detto questo, però, i numeri di quel del dossier di presentazione ufficiale della candidatura, nel frattempo inoltrata al Comitato Olimpico Internazionale, quei numeri non li ha vagliati nessuna autorità politica, né un'autorità politica che rappresenti voi romani in ascolto, perché nel frattempo il Consiglio Comunale è decaduto, né nessun'altra autorità politica a livello nazionale. Allora io mi chiedo se anche questo sia giusto. Aggiungo, prima di presentarvi l'ospite e iniziare a chiacchierare con lui, ma sperando che voi telefoniate per dirci come la pensate su questo debito che torna indietro in pancia al comune? Pensate che il prossimo sindaco sarà Gesù Cristo che moltiplica i pani e i pesci, oppure come pensate di fare? Seconda cosa, è giusto o meno nel frattempo candidarsi anche alle Olimpiadi? Ecco, mentre aspettiamo la telefonata su questo, vi dico anche in estrema sintesi cosa penso dei numeri che avete visto sui giornali, perché i numeri per la candidatura alle Olimpiadi 2024 sono sostanzialmente tre numeri sono stati presentati, cioè il primo numero è relativo alle spese che sono state quantificate per gli impianti necessari per l'apprestamento degli impianti e degli spazi come il villaggio olimpico a Tor Vergata e così via. La stima è molto conservativa, molto bassa, è contenuta in poco più di 5 miliardi di euro di spese. E la stima delle entrate tra sponsorship, bigliettazione e così via è di poco superiore ai 3 miliardi. Quindi, sommando queste due, aritmeticamente, queste prime due cifre, il costo netto è incredibilmente contenuto a una somma di poco più di 2 miliardi. Cioè, sarebbe una cosa senza pari rispetto a tutte le Olimpiadi che abbiamo alle nostre spalle da decenni. 2 miliardi. Microcosto. E questo microcosto, terzo numero, nella stima, per carità, è stata fatta da un'industria, quindi dalla Confindustria Romana e del Lazio, questa era radio di Confindustria e per carità di Dio io non dovrei avere dubbi, ma invece ce l'ho, perché questi 2 miliardi netti stimati di costo, così hanno scritto i giornali, io metto le mani avanti, io il dossier non l'ho letto, quindi i documenti ufficiali e come sia stata fatta questa stima non lo so, però siccome questi sono i numeri di cui disponiamo, quei 2 soli miliardi netti genererebbero, udite, per 6 anni successivamente un più 0,4% del PIL, cioè un più 2,4% del PIL con 2 miliardi. Ma chi è? Veramente abbiamo fatto scendere di nuovo Gesù Cristo e i 12 apostoli per ottenere un effetto simile. Io non riesco a immaginare un modello econometrico che possa dire che con 2 miliardi netti di spesa si generano per 6 anni lo 0,4% ogni anno di PIL. Però forse mi sbaglio io, ve lo dico lì semplicemente perché quando avranno la benevolenza di darci i documenti dettagliati noi ci faremo un'idea e a quel punto forse mi passeranno tutti i dubbi. Per il momento lo escludo. Vi ricordo solo che nel frattempo il governo ha espresso parere negativo a un referendum perché siano i romani a potersi pronunciare sull'ipotesi delle Olimpiadi a Roma nel 2024. Ci saranno altre occasioni per parlarne, ma la notizia da cui parliamo è questa. Torna il debito che è stato separato per far governare a destra e a sinistra in pancia a Roma, ora che forse c'è un sindaco che non sarà quello delle vecchie tradizionali e contrapposte alleanze destra e sinistra? Ma allora Io ho detto più o meno come la pensa, dopodiché tutti i giornali hanno riso quando la Taverna dei 5 Stelle ha detto qui c'è un complotto contro chi vince la prossima volta, vogliono obbligarci a vincere e romperci le corna. Beh, alla luce di questi numeri, forse quelle parole della Taverna, che pure a me non erano piaciute perché il termine complotto non mi piace mai, però assumono un altro senso, eh? Parliamoci chiaro. Allora, è con noi per dirci la sua opinione... un membro del Consiglio Comunale, lo è stato fino alla decadenza del Consiglio, sapete, ricordate tutti come è decaduto il Consiglio con Rutelli, anche in quel caso la spallata venne da decisiva, insomma venne dal governo, da Palazzo Chigi e dal PD, che però nel frattempo, terminata la sua milizia come Consigliere Comunale a Roma, è diventato anche segretario dei radicali a livello nazionale, Riccardo Maggi. Grazie di essere con noi, Riccardo. Grazie a voi, buonasera a te e agli ascoltatori. Partiamo da questo presupposto. Sapevi, immaginavi, avevi sentito parlare di questa ipotesi del debito commissariato separato alla cui ombra hanno vissuto più comodamente le giunte di destra e di sinistra, che può tornare invece in pancia e devastare la possibilità al prossimo sindaco, o è una novità anche per te? No, non è in realtà una novità. Diciamo alcune cose in sintesi su tutta questa vicenda. Allora, io definisco questa gestione commissariale del debito la scatola nera di Roma. È lì che bisogna andare a guardare se si vuole capire quali sono i fattori del disastro che la capitale sta vivendo, e non da poco tempo. No. La Corte dei Conti ha definito la gestione commissariale del debito del Comune di Roma un unicum giuridico, cioè probabilmente la capitale è l'unica amministrazione pubblica a livello planetario che ha due bilanci, cioè ha due bilanci separati, che tra l'altro però non sono sempre separati, ogni tanto si aprono per e hanno delle capienze, esattamente, sì. Esatto, e questo è avvenuto ancora con il famoso Salva Roma, il più recente, esattamente, quello del 2014, dell'anno scorso, un anno e mezzo fa. A cosa è servito questa creare quest'unicum giuridico? È servito per camuffare il dissesto finanziario della capitale, che di fatto c'era nel 2008. Mm-mm. Questo è servito al sindaco Alemanno, che all'epoca non se la sentiva, appena diventato sindaco, di dichiarare il fallimento, per ovvi motivi, voleva governare. Ed è servito all'ex sindaco e agli ex sindaci, che sarebbero potuti incorrere anche in delle sanzioni pesanti, perché a quel punto, una volta dichiarato il dissesto, bisognava andare a guardare le responsabilità amministrative. Si decise quindi di creare la gestione commissariale del debito. Solo nel 2013, attenzione, dopo 5 anni, il commissario presenta la sua relazione al Parlamento, nella quale si parla di 22 miliardi quasi e mezzo di debiti. Si fa un piano di rientro fino al 2048, 500 milioni l'anno, inizialmente li deve pagare lo Stato, poi Tremonti dice noi possiamo arrivare, c'è la crisi, possiamo arrivare fino a 300 milioni, gli altri 200 ce li mette il Comune, esatto. Ce li mettono cioè i cittadini romani con l'addizionale IRPEF al massimo, e con un addizionale non solo per i cittadini romani, commissariale di imbarco su tutti i voli che partono. Magari non lo sanno tutti gli ascoltatori, ma chiunque prende un volo dall'aeroporto di Fiumicino o di Ciampino paga questa tassa per il debito pregresso. Perché ricordiamo, anche con la legge di stabilità che l'ha alzata fino a 9 euro, in realtà proprio per questa sovrattassa ulteriore per gli scali romani è 10 euro, appunto. Ora, politicamente, la valutazione di tutto questo gioco è la seguente, a mio avviso. Si sono resi definitivamente irresponsabili gli amministratori. Bravo. Rispetto alle ricadute in termini finanziari del loro operato. È così. Ed Alemanno è stato il primo. Cioè si chiama, io la uso con un termine più pesante, impunità. Esattamente, impunità. Alemanno aveva una grande occasione, perché gli è stato azzerato il debito nel 2008 e poteva ripartire. Lui è ripartito col piede sbagliato, dopo 2 anni già aveva prodotto un'esplosione della spesa corrente, che effettivamente è a livelli incredibili. A Roma siamo a quasi 3 miliardi di euro di spesa corrente in ogni esercizio, senza considerare le partecipate, che arrivano a un altro 1,5 miliardi ATAC e AMA, con i costi dei contratti di servizio. Allora, qui la questione è molto chiara. Ora ci sono 13 miliardi e mezzo di questo debito, quindi 10 miliardi sono stati liquidati. Di questo debito che resta sono 5 miliardi e 8 di capitale e 4 miliardi e mezzo di interessi. Questi sono tutti debiti finanziari. poi ci sono 3 miliardi verso fornitori di beni e di servizi. Allora, le cose sono due: o lo Stato si accolla questi 5 miliardi e 8 e quindi subito, e quindi fa decadere anche gli interessi, fa diventare debito pubblico, lo mette nel grande calderone del debito pubblico nazionale, oppure si tiene in piedi questa struttura che però, come ci ha detto il commissario Varazzani, da quest'anno non sarà più in grado di lavorare con i soli 500 milioni di euro l'anno, ma avrà bisogno almeno di altri 100 milioni di euro e quindi bisognerebbe reperirli. L'idea di far riconfluire la gestione separata nella gestione ordinaria è un'idea che già avevano avanzato ad esempio il deputato Causi, che è stato anche assessore di Veltroni al bilancio. Esatto, e poi tornato anche, E poi è tornato, io mi diciamo consentito una battuta, è tornato anche sul luogo del delitto, sì, perché, insomma, con Marino alla fine. Qualcuno dovrà pure insomma dire qualcosa su come si è creato questo debito, perché insomma è vero che all'interno ci sono i costi per parliamoci chiaro, cioè, il debito è nato con la gestione Rutelli, Veltroni, cioè non è insomma, questo va detto chiaramente, perché io vedo i commenti di queste ore, noi abbiamo 6 dimenticano candidati tutto, sindaci in questo momento, e insomma, ma nessuno che dica, che faccia una riflessione. Mm-mm. Questo debito si è creato perché la spesa corrente dell'amministrazione è fuori controllo, perché le aziende partecipate in particolare sono state gonfiate a dismisura e quindi ovviamente hanno un costo enorme e non sono in grado più di dare servizi all'altezza di una capitale europea, producono perdite e debiti ogni anno che ricadono sul bilancio dell'amministrazione comunale, tra l'altro adesso col bilancio consolidato ci sarà, speriamo, l'evidenza di questo. E allora insomma c'è solamente da sperare che si cominci in questa campagna elettorale, però io vedo che si è partiti col piede sbagliato. No, non se ne parla per niente. Con la lamentela, esatto. Con l'alibi. No, adesso non possiamo. No, invece che passami la battuta. Io sono stato il primo a dire che Marino alla fine non era all'altezza, ma paragonare le pezze d'appoggio delle scene di Marino a 22 rotti miliardi e la responsabilità politica a sinistra e a destra, insomma, c'è una sproporzione tale, è un po' troppo comodo dimenticare i 22 miliardi, ecco, per così dire. Aspetta un minuto di pausa e torniamo, perché ti devo chiedere, anche se so già come la pensi, cosa pensi di questi numeri che emergono a prima vista, questo dossier di candidatura alle Olimpiadi che non conosciamo ancora nei dettagli in questo frangente, però tra un minuto, perché abbiamo l'informazione sulle strade. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... La versione di Oscar. Cioè, la scelta di Bertolacco mi ha lasciato veramente perplessa, tanto quanto quella di Giachetti, che subito ha detto sì, però io rimango deputato perché sia mai... che non divento sindaco, figuratevi che me ne frega di Roma e andare a fare il consigliere, io rimango a fare il deputato. Questi stanno mettendo in campo dei nomi perché non vogliono vincere Roma, questo è chiaro. Dice gli diamo Roma, noi gli diamo più una lira, dicono adesso ci mettiamo il 5 stelle, gli togliamo i fondi, così gli facciamo fare questa... E questi romani lo devono capire fin da ora. Hanno fatto allora, abbiamo scelto di farvi risentire le parole che qualche giorno fa hanno fatto tutti ridere dietro Santice Paolo Taverna dei 5 Stelle, però come vedete l'ipotesi era levare i soldi, era molto chiara e di questo stiamo parlando. Allora, qualche telefonata rapida e poi torniamo con Maggi anche su se sia il caso di fare le Olimpiadi senza sentire i romani con questi bei chiari di luna che vi abbiamo sintetizzato. Esatto. Cominciamo con Carlo da Roma. Carlo, prego. Eccomi, buongiorno. Praticamente tutte le persone che non avevano sentito chiaramente il discorso della senatrice Taverna adesso lo possono risentire con una lente nuova, con un audio nuovo, con un quadro di riferimento che comincia a far vedere tassello per tassello. Io volevo solamente... Infatti per obbligo giornalistico, per questo l'ho rimandato in onda. Esattamente. Io a Roma mi occupo di mobilità personale. Il bollettino traffico metà intorno a Roma, tutta la capitale quasi bloccata perché c'è un'assenza di servizio pubblico, di trasporto pubblico, di piano mobilità, di mobilità sostenibile. Io mi occupo anche di elettrico. Roma si mette a pensare alle Olimpiadi adesso. Roma ha dei problemi storici che non possono essere tralasciati per pensare alle Olimpiadi. Se poi le Olimpiadi devono essere... Ex Expo 2.0, portiamo via i soldi, o portiamo via i soldi con Italia 90, o portiamo via i soldi con lo stadio del nuoto. Se non si mette a posto Roma prima, a Roma non si può fare nulla di nuovo. Chiarissima opinione. Sentiamo Piero da Roma. Piero. Salve, buon pomeriggio. Volevo soltanto, fermo restando, sono certamente d'accordo con chi mi ha anticipato prima. Volevo soltanto chiedere al governo, anche per lui, una prova di democrazia a costo zero. Avremo le amministrative fra poco. Stampiamo la scheda con tutti quanti i segni dei partiti, di chi si presenta, e in fondo alla scheda una domanda. Volete le Olimpiadi? Sarebbe no. Bello, sarebbe punto. Bello. Basta, ci chiedessero per una volta, a costo zero, ripeto, certo. Cosa pensiamo delle loro scelte. Io ricordo che ci sono grandi città europee, Amburgo, che pensavano di candidarsi, ma in cui l'amministrazione comunale ha detto no, dobbiamo sentire i cittadini, e in quel caso la risposta è stata no, grazie, per dirne una. Cioè, altrove nel mondo si fa così, non è, vorrei dire. Che dici, Riccardo? Qual è la tua opinione su quei numeretti del dossier di candidatura che abbiamo letto sui giornali? Non si dovrebbe sentire l'opinione pubblica? Ma non solo si dovrebbe sentire, ma noi stiamo andando avanti con la raccolta delle firme, ricordiamo referendum Roma 2024.it, perché la mozione che è stata votata, tra l'altro a firma di due dei candidati del centrosinistra, Morassut e Giachetti, con la quale il governo ha respinto l'idea di fare un referendum, comunque non è che può superare la procedura che noi stiamo mettendo in atto, quella con le raccolta delle firme dei romani. Il referendum consultivo si può fare e noi riusciremo a farlo. Sui numeri del dossier, è stato scelto un modo di porlo diverso dagli anni passati, cioè sono state considerate solamente le spese per realizzare gli impianti sportivi e le spese organizzative. Non ci sono le infrastrutture, tutto come se non ci non dovessero. Esatto. Cioè, evidentemente aggiungendo, queste sono spese di poco inferiori a quelle della precedente candidatura, quella che venne bocciata dal presidente Monti all'inizio del 2012, candidatura per il 2020. Sì. Se noi aggiungiamo le spese per le infrastrutture arriviamo esattamente allo stesso ordine di cifra, cioè 12-13 miliardi di euro. Le entrate sono gonfiate, le previsioni di entrate in una maniera quasi imbarazzante, così come i posti di lavoro. Quando si parla di 177-180 mila posti di lavoro, a mio avviso li si considera anno per anno e li si somma, cioè sono 11.000-12.000 posti di lavoro ogni anno, e li si somma in tutti gli anni, sì. Non sono 177.000 posti. Cioè è un modo un po' strano di fare dei documenti di compatibilità economica e finanziaria e di previsioni, questo, e secondo me nemmeno tanto serio. Consideriamo sempre che il CONI, così come il comitato promotore, sono degli enti pubblici, sono delle istituzioni, a mio avviso si comportano un po' troppo con uno spirito, diciamo così, spregiudicato. No, soprattutto in quanto istituzioni pubbliche dovrebbero essere vie più obbligate ad avere delle simulazioni econometriche certificate, per così dire, proprio per la natura pubblica. Se un privato mi fa dei numeri è così, vabbè, ma se me le fa un ente pubblico, un'istituzione pubblica, io come contribuente sono obbligato a chiedere tutta la trasparenza del caso per capire come sono state elaborate queste cifre. Io lo so che io e Riccardo la pensiamo allo stesso modo e tanti altri la pensano al contrario. Però fino a questo momento noi il documento non ce l'abbiamo, quindi possiamo solo ripetervi le vostre opinioni. Attenti a quello che succede a questo debito, perché è in gioco la possibilità di governare Roma, chiunque voi scegliate come prossimo sindaco. Non è male, perché significa dire alla democrazia: Marameo, comandano i vecchi partiti. Continuate su Radio 24, appuntamento domani, non perdetevi i conti della Belva dalle 10 a mezzogiorno con me, Mario Seminerio, Carlo Alberto Cannavale Maffè e Rita Faticoso dalla Cina e Renato Cifarelli. A domani mattina.